Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora buona domenica da Giampaolo Mauro. Una donna ha perso la vita in un incidente sulla A34 poco prima delle 4 di notte, grave la figlioletta di 8 anni e ci sono altri 3 feriti. È l'esito di un violento tamponamento avvenuto a cavallo del confine italo-sloveno, ne parleremo in apertura. Poi sentiremo da Gemona come vive la comunità la tragedia di questi giorni, l'omicidio di Alessandro Venier. Parleremo di turismo con le sollecitazioni da Lignano a risolvere la questione di Passo Montecroce Carnico per favorire l'afflusso dei turisti dai paesi di lingua tedesca. E poi il boom degli infopoint, 70 gli sportelli in regione. Per la cultura la nuova mostra di Ulderica da Pozzo si inaugura nel pomeriggio a Malborghetto. Sono le 12:16, cronaca nera dunque in apertura con l'incidente della notte sul raccordo autostradale Gorizia-Villesse all'altezza dell'ex valico di Sant'Andrea. Vi ha perso la vita una donna di 32 anni di nazionalità serba rimasta carbonizzata dopo un tamponamento. Alle 3:50 della notte due SUV con targa svizzera e passeggeri serbi stavano entrando dalla Slovenia in territorio italiano transitando sul tratto finale dell'autostrada slovena H4 ed imboccando il raccordo italiano A34. Nell'attraversare l'ex valico di Sant'Andrea il SUV BMW notava la presenza della postazione di controllo della polizia di frontiera e rallentava bruscamente la marcia, mentre il SUV Mercedes che lo seguiva non riusciva a frenare in tempo ed impattava il BMW con un tamponamento violentissimo che provocava la rottura del serbatoio del BMW e a quanto sembra faceva saltare anche il tappo di carico del carburante. Il veicolo tamponato andava in testa a coda e le scintille del trascinamento inerziale innescavano un incendio che avvolgeva il BMW. L'uomo che lo guidava, di nazionalità serba, riusciva ad uscire dal veicolo e a mettere in salvo il figlio di 8 anni che accusava un forte trauma addominale. La moglie del conducente invece, probabilmente stordita dalle contusioni, non reagiva ai richiami del marito e rimaneva intrappolata nel veicolo ormai in preda alle fiamme. I due occupanti, anch'essi serbi, del SUV Mercedes, autore del tamponamento, invece riportavano uno un trauma al bacino e l'altro ferite agli arti inferiori. Venivano ricoverati all'ospedale di Gorizia. Al momento l'autostrada è ancora chiusa nella zona di Sant'Andrea, sia nel tratto sloveno che in quello italiano. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR, Friuli, Venezia, Giulia. A Gemona la comunità è sotto shock dopo l'omicidio di Alessandro Venier, concepito e portato a termine dalla madre Lorena e dalla compagna dell'uomo Maylin Castro Monsalvo, una vicenda sconcertante che coinvolge anche la figlioletta della coppia nata 6 mesi fa. Il giorno della riflessione oggi qui a Gemona, dove si respira un'atmosfera di incredulità, sconcerto, ma soprattutto il sentimento che sembra prevalere è quello della vergogna. La vergogna che un crimine così efferato sia accaduto in questo tranquillo borgo della pedemontana friulana, Gemona, 10.000 abitanti. Le persone che abbiamo ascoltato e a cui abbiamo chiesto un'opinione su quello che è accaduto ci dicono che al massimo in questa città erano successi dei furti, non sono assolutamente abituati a questo genere di crimini che peraltro non hanno precedenti nel paese. La messa è appena terminata nel Duomo, celebrata dal parroco Valentino Costante, non ha fatto alcun accenno alle recenti appunto indagini, alla vicenda in sé, ha semplicemente detto all'inizio della messa: celebriamo questa messa in questo periodo difficile. E poi ha proseguito come se fosse una domenica qualsiasi. C'era anche un battesimo di una bambina e nonostante questo i banchi del Duomo erano mezzi vuoti, c'era veramente pochi fedeli in chiesa. Intanto le indagini proseguono e emerge che su Alessandro Venier, l'uomo di 35 anni vittima di questo efferato crimine, pendeva una condanna che stava per diventare esecutiva e che gli avrebbe impedito l'espatrio dopo una serie di piccoli reati commessi in tempi diversi, reati come la coltivazione di sostanze stupefacenti e lesioni personali gravi, ma non causate peraltro per un eccesso di difesa. Alle superiori gli era stato contestato il reato di procurato allarme e quello di minacce. Più tardi sarebbe stato protagonista anche di un episodio violento nei confronti di un ex collega qui a Gemona e poi accusato di maltrattamenti di animali e numerosi atti di esibizionismo, alcuni dei quali sono divenuti virali nelle ultime ore con video che hanno già migliaia di visualizzazioni. Gemona, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Una nuova rissa nella notte a Trieste con l'intervento delle volanti della questura poco dopo le tre all'incrocio tra via D'Azeglio e via Foscolo. A segnalarla sono stati i residenti, ma all'arrivo degli operatori i protagonisti, si presume stranieri, si erano già allontanati. Poco lontano sono stati controllati gli avventori di un bar di via Foscolo, un centinaio in prevalenza sudamericani. Il locale è stato fatto chiudere in considerazione delle numerose lamentele dei condomini. Passo Monte Croce Carnico chiuso la notte per i lavori, operatori turistici di Lignano scrivono alla regione chiedendo l'apertura almeno fino a metà settembre per consentire a austriaci e tedeschi di raggiungere le nostre spiagge in una stagione già segnata dalle disdette per colpa del meteo. Cielo coperto, aria fresca, molti ombrelloni chiusi in spiaggia. Siamo ad agosto, una situazione decisamente insolita a Lignano Sabbiadoro. Non mancano le disdette per il maltempo e a rallentare l'arrivo di turisti ci si mette anche la strada, ce lo spiega bene Mario Andretta, titolare di un grande camping. Agosto è il mese dei bavaresi, l'ultimo land della Germania e anche il più vicino ad andare in ferie. Ma le partenze notturne dai tedeschi molto apprezzate sono scoraggiate dal fatto che passo Monte Croce Carnico di Timau viene chiuso per lavori dalle 22 alle 6 del mattino. Con una lettera alla regione voi operatori avete chiesto di aprire anche la notte, perché è così fondamentale? Di fatto da Monaco o comunque anche dall'Austria si può passare per Salisburgo. Sì, la viabilità attraverso Salisburgo, cioè Salisburgo, Tarvisio, passando per Vilacco, è spesso molto congestionata, ci sono molti cantieri. Quindi l'alternativa della viabilità attraverso il Monte Croce è un'alternativa molto gradita da parte di chi non ha problemi a fare strade di montagna. Quindi la chiusura notturna è assolutamente deleteria e scoraggiante per molti turisti che desiderano mettersi in viaggio verso il Friuli. Lignano Sabbiadoro, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E a proposito di accoglienza turistica, negli ultimi anni balza all'occhio lo sviluppo dei servizi di informazione. Una settantina gli uffici attivi oggi in regione e nell'ultimo anno ci sono stati 40.000 contatti in più. Ti chiedo, dammi un consiglio oggi, questa giornata di pioggia, cosa possiamo fare qui a Grado? Può andare a visitare le due chiese paleocristiane, la Basilica di Santa Eufemia sicuramente, dove può trovare anche una bella mostra. È una delle tante richieste che i turisti fanno agli addetti degli infopoint della nostra regione, una presenza capillare su tutto il territorio con 70 uffici gestiti in parte direttamente da Promoturismo FVG e per la parte restante dalle amministrazioni locali. Un servizio che negli anni si è consolidato ed è cresciuto nonostante il proliferare del web e dei social. Basti pensare che dal gennaio di quest'anno fino ai primi di luglio sono stati registrati ben 257.752 contatti rispetto ai 216.822 dello stesso periodo del 2024, con un incremento del 18%. Un servizio che viene offerto 7 giorni su 7 per 8 ore giornaliere dai 59 operatori di Promoturismo FVG, personale che parla correttamente due lingue straniere ed è altamente specializzato nell'accoglienza turistica. Evelyn Zilli, addetta dell'Infopoint di Promoturismo FVG di Grado. Arrivano chiedendo dov'è il centro storico, poi vogliono fare una visita in laguna, hanno anche bisogno di un hotel, arrivano molti cicloturisti senza alloggio. Dalle località di mare alla montagna, dalle città d'arte ai capoluoghi di provincia, l'Infopoint formano una rete di assistenza turistica d'avanguardia anche negli uffici gestiti dalle amministrazioni comunali tramite le Proloco e le associazioni di volontariato, ma sempre sotto la regia di Promoturismo FVG. Elisa Gon di Promoturismo FVG. Vengono sia a nozione di conoscenza del territorio, ma vengono valutate sicuramente anche l'abilità di accoglienza. Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo al tempo, abbiamo cielo da nuvoloso a variabile sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature delle 11, a Trieste 21 gradi e mezzo, mare mosso con temperature di 23 gradi e mezzo, soffia Borino a 45 orari. A Udine, a Gorizia abbiamo 21 gradi e mezzo, a Pordenone 20 e 5 decimi, nell'area montana a Tolmezzo 16, a Tarvisio 15, a Sappada 13 e mezzo, così come a Forni di Sopra. 15 gradi sul Piancavallo e ancora in quota sull'Ussari 8 gradi e mezzo, sullo Zoncolan 8 gradi, sulla costa Lignano 21 e mezzo, temperatura del mare 23, a Grado 21, temperatura del mare 24. Secondo l'ARPA nel pomeriggio avremo nuvolosità variabile con schiarite localmente anche ampie, possibile qualche locale rovescio o temporale. Sulla costa soffierà vento moderato da nord-est, tempo più stabile dopo il tramonto, temperature fresche per il periodo, domani e dopodomani bel tempo con temperature in aumento. La pagina della cultura e degli spettacoli, tanta musica nell'agenda di oggi, a cominciare dal triplo appuntamento per No Borders a Fusine. Sul palco è salito a mezzogiorno Goran Bregovic, più tardi toccherà ai Patagarri e ai Kings of Convenience. Tra gli altri eventi di oggi, il Bolero e i Carmina Burana in piazza a Palmanova con i 200 elementi dell'Ensemble Symphony Orchestra and Choir alle 21.30, al Festival di Maiano di scena Ruggero dei Timidi, mentre a Gradisca Massimo Coppola chiuderà con un revival MTV, il cartellone musicale di Onde Mediterranee. Al Museo Etnografico di Malborghetto sarà inaugurata alle 15 la mostra Passaggi sul fil dal timp di Ulderica da Pozzo, un progetto che racconta 40 anni di vita nelle malghe del Friuli. Non solo fotografie, ma anche testimonianze e registrazioni per documentare l'evoluzione dell'ambiente alpestre. Un'esposizione che si articola in due sezioni, una tradizionale all'interno del museo e una diffusa allestita in alcune malghe della Val Canale. Ulderica da Pozzo ci accompagna in un racconto per immagini e voci che attraversa 40 anni di storia nelle malghe carniche. Un richiamo a raccontare un mondo che ho vissuto e che poi ho conosciuto attraverso le prime foto che facevo proprio nelle malghe sopra casa mia. Da lì è poi nato questo percorso nel 2003-2004 in cui ho viaggiato in tutte le malghe della Carnia ed è nato il libro Malghe Malgari. Il percorso espositivo mette in luce i passaggi generazionali, il crescente protagonismo femminile nell'imprenditoria montana e la trasformazione del paesaggio alpino, sempre più segnato dall'abbandono e dal cambiamento climatico. Le fotografie, accompagnate da interviste e registrazioni sonore in friulano, restituiscono un racconto corale e autentico di un mondo che cambia ma non scompare. Ci sono delle famiglie, dei mondi che resistono, sono generazioni, generalmente sono delle famiglie che resistono, perché non so se sono i geni o se è qualcosa che si trasmette così. E poi quando arrivi in questi luoghi senti la bellezza di un pensiero alto. La mostra rientra nel progetto Passaggi nelle Terre Alte, promossa da Border Studio SC con il contributo della regione, e rimarrà aperta fino al 7 settembre. Andrea Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora lo sport calcio, chiusura in crescendo della prima parte della preparazione per l'Udinese che ieri sera ha battuto anche gli olandesi del Twente. Decisiva una rete di Bravo all'inizio della ripresa su assist di un ottimo Attà. Nel primo tempo i bianconeri hanno controllato le iniziative avversarie e dopo il vantaggio hanno costruito altre occasioni, così come era successo con lo Strasburgo. Soddisfatto lo staff, ieri subito dopo la gara ha parlato il vice di Runjajic, Mawec: stiamo costruendo la nostra mentalità e guadagnando fiducia, ha detto, è un altro passo in avanti in vista della Coppa Italia e della Serie A, siamo sulla strada giusta. Soddisfazione anche per il rientro di Toven che ha giocato gli ultimi 20 minuti. L'Udinese, concluso il ritiro, riprenderà ora la preparazione al Bruseschi, primi impegni ufficiali la gara di Coppa Italia il 18 agosto contro la Carrarese, una settimana più tardi l'esordio in campionato contro il Verona, entrambe le partite in casa. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Carlo Morello e Marco Ferrito, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Sono le 12:29, prossima edizione alle 18:30. Grazie per la vostra attenzione, buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.